You'll listen to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is oxygen. Tutti i sabati tutta la notte, dalle 23. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. This is oxygen. You're listening to oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. Paintings on the walls were dripping. It was, you know, you could see the paint coming down them like this, just like somebody was hosing it off at the top and all the paint was running down to the floor. But it was so pretty. They were running. Just like they were melting. It was groovy. You'll listen to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is oxygen.

for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. Thank you. Un saluto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, in voce con voi Amptech. Ho aperto con una novità di una certa rilevanza, si tratta del nuovo lavoro di The Orb, il 18° album in studio del duo di musica Ambient House che si intitola Buddhist Hipster. L'album, che è uscito il 10 ottobre, prevede la collaborazione del gruppo con importantissimi artisti come Roger Eno, fratello di Brian Eno, Steve Village e Miquette Girardi dei System 7 e dei Gong, e una vecchia conoscenza degli Orbe si sente anche nella qualità dei brani contenuti in questo lavoro. C'è Youth, che è una figura che era già presente nei primissimi lavori di The Orb, che era stato anche membro dei Killing Joke. L'album richiama lo spirito dei vecchi lavori di The Orb, anche se devo dire ci stanno un paio di scivoloni un po' house che mi lasciano personalmente perplesso, ma andiamo avanti. The Utopia Strong è un progetto britannico che vede luce a Glastonbury, è prodotto da Steve Davis e Cavus Torabi e Michael J. York. Hanno realizzato un album pochissimi giorni fa che è stato rilasciato sulle piattaforme, che si chiama Dope Rider. Listen to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. We'll be right back. E si chiamava Prophecy, questo brano di The Utopia Strong. Vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen in voce con voi Amptech. Passiamo a un'altra novità sulla quale ci soffermiamo perlomeno per un paio di brani. Si tratta dell'album che era stato preceduto da un extended play che avevamo già ascoltato, di Warrington Rancor, New Town Development Plan. This is Oxygen. Thank you. oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. Molto vintage questa musica prodotta da Warrington Rancor, New Town Development Plan, affonda le sue radici su sonorità che in qualche modo sono ricollegabili agli anni 70, ma non soltanto al krautrock nel primo brano che abbiamo ascoltato, direi anche al rock progressive. Il lavoro si chiama Appendix One. Ma andiamo avanti con un altro lavoro di Alexi Perala. Siamo, non so, al 16° album pubblicato nel corso del 2025. Questo si chiama Grace 11. È decisamente uno dei migliori dischi che Alexi Perala ha prodotto ininterrottamente, almeno due al mese nel corso del 2025. Alexi Perala. Thank you.

Questi erano due estratti dal titolo impronunciabile dal nuovo lavoro di Alexi Perala, che come molti già sapranno ha prodotto quasi 16 album soltanto nel 2025, e un artista che abbiamo conosciuto in passato grazie alla Reflex, l'etichetta di Aphex Twin, artista finlandese. Ma torniamo in Gran Bretagna con Chris Carter e Ian Buddy, che hanno rilasciato questa traccia sulle piattaforme che si chiama Uncaged. For your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Allora, questi erano Ian Buddy e Chris Carter, Uncaged del titolo del brano uscito come singolo sulle piattaforme, e chiudo la prima sezione della trasmissione con un estratto dall'album invece di Bla One.